time than now. E eccoci su Radio Contado. Rieccoci, incredibile, ci siamo lasciate prima di Natale, poi nel frattempo c'è stato Capodanno, il Capodanno cinese, siamo arrivati tardi pure per Carnevale, tra un po' vi diremo buona Pasqua. Vabbè, vogliamo giustificarci, Grebana, con le nostre radioascoltatrici e i nostri radioascoltatori? Guarda, non so se siamo in grado. No, non è lascivismo, ci sono stati grandissimi lavori ancora in corso, quindi se dovesse saltare qualcosa durante la puntata di oggi non ce ne abbiate a male, ma c'è l'elettricista, c'è l'idraulico, c'è il faccendiere, non so, c'è il mondo. E noi ovviamente siamo poco tecnologiche, quando non c'era qua nessuno non siamo state in grado di far partire questa regia. Io penso che sia tutta colpa dell'anno del serpente. Sicuramente, questo serpente insomma sibila contro di noi. Però siamo tornate, siamo tornate con un sacco di novità, anche perché ne sono passati mesi in arretrate da raccontarci, da raccontarvi. Quindi se avete qualcosa di preciso da chiederci, scriveteci a radiocontado@insiberia.net. Ma anche sul nostro bellissimo pad, sempre super utilizzato, su Diretta Wombat. Ma diciamo, è tutto un fermento questo mondo, la nostra radio, sobbolle tutto. Infatti parleremo di fermentati, ma prima di farlo vi mandiamo una bellissima canzone di Carnevale. Se questa strada, la curva al giace e la curva al su, è questa strada che la rampega, quella dei noni e di Beneu. Su sta lontan per troppi anni, ho l'aura e mai a faticos, e questa schiena è tartaruga, su questa strada la porti a ca. La noce le fregia, la noce le scura, ma una fiammata la sbranerà, mi la bucer come autoscontri e anche al zeppel bruserà. E questa sera che più è una lingua, che più è una faccia, che più è un vestì, come un vestì, una bottiglia e questa maschera di legno. Da calavara onda, curiandoli con tra i pensè, intanto il brutto d'onda e il bel fave del butage. Denanz del mascheron, subito dopo la seguità, vedrei tu saper, tu alla gioia la parlerà. Ai cavul della tua vita, te che pensere tu man, poverne a scappare del carneval de Schignan. Tutto il paese il gaffer la porta e ogni porta la cade in qua i vent, e più veloci che più campana, solo bronze, petardi e sciop, e questa maschera che mi scont la tegni fissa, la molli mai, l'unica faccia che gola è questa, perché quell'oltre sappiando ele. La vedi rit, le rispusa dalla par contenta, la trovi be, chi sai fie, se si investì, se galla maschera anche in EU, che vo visen, la branchiscia, per tre minuti la fova là, ni se una maschera cambia faccia, anche se suta che non che piange, data la vara onda, curriandoli contra i pensè, intanto il brutel d'onda, il bel fave del butage. Denanz del mascheron, subito dopo la segretà, vedrete di saper, tu ma la gioia la parlerà. Ai gabul della tua vita, te che pensere tu man, potetmi a scappare del carneval de Schignan. Se questa strada, su questa strada, una curva al jazz e una curva al su, le questa strada che la rampega, quella dei noni e di Meneu, torni lontan, un altro an, voilà urrai mai a feticos, e questa maschera è intagliata, anche stasera la porti a casa. Anche Papa Francesco sostiene il mercato di Piazza Tasso, in particolare Giovanni e il suo ottimo vino naturale. Ah, senza vino non c'è festa. Oh, è perché anche il vino è un fermentato, vero? Esatto, oh, ma oh, abbiamo il vino, la birra, il pane, cioè un sacco di cose, ma noi non parleremo di questi classici fermentati della tradizione contadina che noi conosciamo. Ma parleremo di un sacco di cose tipo kombucha, kimchi e altri 2000 fermentati. E quindi abbiamo due massimi esperti al riguardo con noi qui. E quindi lascerei una parola intanto a Ennio che ci fa un po' di introduzione culturale sulla fermentazione. Tanto grazie, grazie a Ennio e Pippo per essere qua. Grazie a voi. Penso che siano qualcosa di sostanzialmente magico, su cui è molto difficile avere una comprensione totale, sono molto mutevoli, molto complessi, molto variegati, fanno un sacco di cose che non capiamo, quindi non riusciamo davvero a dare una definizione precisa di cosa vuol dire, né di che cos'è che è fermentato, ciò che non lo è, perché tutto quello che attorno a noi fermenta costantemente. Ed è dall'osservazione del fatto che succede in modo spontaneo che nel tempo l'umanità, e non solo, anche perché un sacco di altri animali l'hanno appreso, abbiamo imparato in qualche modo l'arte della fermentazione, nonostante continuiamo a non avere completamente il controllo di questa cosa, per fortuna in realtà, perché si possono fare un sacco di cose molto pericolose con essa, quindi per fortuna non riusciamo a averne pieno controllo. E tutto fermenta attorno a noi, tant'è che la purificazione delle acque è dovuta principalmente a questo processo, la biodiversità del suolo, il cibo che mangiamo è principalmente fermentato, tantissimi degli alimenti che consumiamo tutti i giorni, anche se non lo sappiamo, sono fermentati, se ne è citato qualcuno prima, quindi il vino, il formaggio, il pane, l'aceto, ma anche il caffè, il cioccolato, la vaniglia, il tè, insomma si può continuare, ma sono davvero davvero tanti. Ed è una cosa che l'umanità ha osservato in tutte le parti del mondo e che è diventata parte della cultura in tantissimi posti, prendendo molto spesso una ritualità quasi, quasi sacra. Ora, pensando alla cosa più vicina a noi, basti pensare al fatto che il corpo e il sangue di Cristo sono pane e vino, però è una cosa che è presente ovunque, proprio perché è diventato una cosa rituale che hanno fatto le comunità con tanti scopi. Sicuramente quello più semplice che possiamo immaginare è legato alle bevande inebrianti, nate dall'osservazione della frutta che cadeva e che marciva e che diventava alcolica, o anche del miele che poteva colare dentro un albero cavo pieno di acqua, e assaggiandolo appunto il gusto è molto buono ed è inebriante, quindi c'è una ritualità legata a questo come tante altre, ma al di là di questo aspetto è legato anche a una questione molto pratica, che è quella di rendere più lungamente reperibili dei cibi che sono molto deteriorabili. Appunto, si è fatto l'esempio del formaggio perché il latte è molto deperibile, ma come anche molta frutta, molta verdura, quindi è nato come metodo di conservazione e di trasformazione, perché è anche una cosa che permette di rendere commestibili degli alimenti che prima non lo erano. Per esempio ci sono dei tuberi che sono altamente velenosi, che però se lasciati a mollo nell'acqua cominciano a fare le bolle, quindi fervono, è da qui che viene la parola fermentazione infatti, e diventano per noi commestibili. Tutta questa cosa bellissima a un certo punto si rompe quando arriva l'industrializzazione, in particolare l'agroindustria. Ta ta ta ta. Tan tan tan tan. Ci manca qualche suono da mettere sotto, eh? Non ce li ho, li procurerò per la prossima volta. Intanto li farai tu per noi. E niente, arriva l'industrializzazione e cerca di imitare questa cosa che era sostanzialmente la base dell'alimentazione planetaria. E non ce la fa proprio perché abbiamo detto che sono qualcosa di molto instabile, molto magico e appunto molto poco comprensibile, per cui alla fine ne nascono due conseguenze principali. Una è quella di creare dei sostanzialmente surrogati, e quindi vengono imitati i sapori e le consistenze, diciamo, attraverso delle, delle pratiche completamente diverse. Vedi il sottovuoto, cioè quello che era prima la fermentazione della verdura acidolattica, di cui poi parliamo, per esempio i crauti, diventa un sottaceto, diventa il sottovuoto. Le bevande fermentate spontanee diventano bevande gassificate, zuccherate, anche quella che è per noi ad oggi è l'aranciata, erano arance fermentate. Quindi sostanzialmente ne cambia completamente le basi, e, imitandone il gusto, ma non soddisfatta l'industria sceglie anche di fare delle ricerche su questa cosa, poiché non riusciva a replicare allo stesso modo gli stessi alimenti, e da questa ricerca nasce sostanzialmente la microbiologia, che oggi ci dà una spiegazione un po' più precisa di quello che è fermento. E ci dice che la fermentazione è sostanzialmente l'azione trasformativa dei microrganismi, quindi ci sono questi piccoli esserini che sono davvero piccoli, piccoli, piccoli, che sostanzialmente trasformano il cibo con i loro processi, il cibo e non solo in realtà, con i loro processi vitali, e fanno tutte queste cose strane, tipo renderlo mangiabile, cambiargli il gusto e tante cose. Sono degli esserini che vivono, si dice, almeno la scienza ci dice, che vivono su questo pianeta da 3 miliardi e mezzo di anni, quindi un tempo molto grande rispetto all'umanità, e con cui nel tempo siamo diventati simbiontici, quindi, in qualche modo. Loro ci conoscono bene, ci hanno visto nascere. Di sicuro. Ci conoscono molto meglio di come conosciamo noi loro, e fanno un sacco di cose. Non so se vuoi parlarne un po' tu a questo punto, di che fanno e come ci stiamo insieme a questi microrganismi. Ah, beh, certo. Esperto number two. E, beh, sì, sicuramente la cosa interessante rispetto proprio a questa diversità dei microbi e quindi dei batteri che sono presenti ovunque e comunque, quindi diciamo in contrapposizione con l'idea moderna del sanificato, igienizzato, sterile, sono una grande forza generativa che la ricerca comunque anche oggi sta cominciando a guardare con un occhio speriamo diverso, per esempio anche in maniera correlata a quello che è il cambiamento climatico. Per esempio i miei crauti o i miei kimchi hanno un sapore che sarà sicuramente diverso da quello che fa Ennio o da quello che fa qualcuno in un'altra regione. Questa diversità è data dall'ambiente in cui questi batteri crescono e nascono, e quindi dove sono coltivati ad esempio i miei ortaggi, come sono coltivati i miei ortaggi. E questa cosa qua, che per me è bellissima, la ricerca la prende in maniera diciamo agroindustriale da un altro punto di vista, per esempio su un alimento fermentato che è il più consumato sul bacino del Mediterraneo, che è l'oliva, l'oliva in salamoia, un buonissimo fermentato che si conserva a lungo, e magari nessuno di noi avrebbe apprensione a mangiarsi un'oliva in salamoia perché non sa che è fermentata, mentre ultimamente c'è interesse e spavento rispetto a questo concetto di microbi e batteri buoni. L'agroindustria sta studiando adesso quelli che sono i ceppi batterici, ad esempio, che stanno sulle olive, per andare a selezionarli per dare a tutte le olive lo stesso sapore, quello che piace diciamo di più al consumatore, mentre in realtà stiamo vedendo che col cambiamento climatico anche i sapori e quindi le colonie batteriche che si sviluppano sulle diverse culture, ad esempio di olivo e di oliva, cambiano, e quindi stanno cambiando anche i sapori. Quindi questa cosa qua è una ricerca interessante che si sta sviluppando intorno a questo alimento, che ha un peso economico ovviamente perché è consumatissimo, e però ci dà un po' l'idea del fatto che c'è qualcosa che fermenta in maniera veramente disomogenea e diversa in base agli ambienti e in base ai climi. Per quello che riguarda, secondo me, un po' l'aspetto generale dei fermentati, la cosa più interessante è un po', sì, cioè tanti alimenti si generano grazie alla fermentazione e sono veramente disparati e distesi in tantissime culture diverse. La cosa interessante è proprio questa, cioè che ogni cultura ha un suo alimento fermentato di riferimento, e questa cosa qua è molto interessante quando si va a vedere soprattutto le culture dove non... diciamo dove Pasteur, quindi la pastorizzazione, non hanno preso immediatamente piede nell'Ottocento, diciamo in epoca napoleonica, durante le guerre napoleoniche, l'idea della pastorizzazione nasce lì. Cioè se noi si va a cercare gli scritti si trova che in campagna si conservavano gli alimenti nei vasi di vetro come boh, e è stato tirato fuori la pastorizzazione per poter fare queste queste conserve in maniera industriale. Per fare cosa, fondamentalmente? Per garantire viveri agli eserciti che si spostavano. Quindi anche questa cosa qua ovviamente ci può far riflettere rispetto all'utilizzo di questi tipi di pratiche, che vanno sicuramente a demolire quella che è la biodiversità microbica e alimentare che ci può essere in diversi ambienti. Posso fare una domanda da inesperta? Quindi, diciamo, ci sono alcune fermentazioni che sono, vediamo se dico una cazzata, che è come se fossero compiute e finite e quindi possono essere poi standardizzate, cioè un pane una volta che ha fatto il suo processo è finito, cioè non è che continua la fermentazione continua, domanda, come per un vino, cioè io poi lo metto in bottiglia e infatti poi li posso mettere nei supermercati, mentre parlando per esempio dei kimchi o dei vari fermentati di verdure, cioè mi sembra una cosa che rimane viva, o mi sbaglio? Allora, diciamo, è vero in entrambi i sensi, cioè nel senso il pane è un alimento fermentato, sì, però poi dopo lo portiamo in cottura e quindi sicuramente lì la fermentazione la arrestiamo, anche se magari erano rimasti degli alimenti nutritivi per proseguire, no? Cioè se noi un impasto di un pane lo lasciamo lì, andrà avanti. Sicuramente discorso magari che fa parte dei nostri mercati contadini, della pasta madre, è sicuramente questo concetto di diversità rispetto magari a un lievito di birra che può essere usato in panificazione. Si usa il lievito di birra per standardizzare alcuni processi fermentativi, quindi un lievito selezionato, diciamo dall'altra parte invece c'è un lievito madre dove ci può essere una complessità maggiore e quindi sapori diversi, capacità di gestione da parte di questi batteri dell'alimento che gli si va a dare, nonché la farina, diversa, e quindi anche questo qui si può perdere in parte una possibile variabilità. Sul vino, ad esempio, invece abbiamo un elemento molto interessante, che è quello dell'alcol, che è un selettore, cioè a un certo punto, dopo un tot in cui cresce questo livello alcolico, la fermentazione si arresta perché non ci sono più lieviti, nel caso del vino, che riescono a vivere all'interno dell'alcol. Però, per esempio, si possono innestare altri batteri, il batterio acetico, che si magna l'alcol in un vino, soprattutto se magari non è stato solfato, quindi non ci sono grandi quantità di solfiti all'interno, i batteri acetici vivono lì dentro e cominciano a mangiarsi l'alcol e lo trasformano in acido acetico. Sì, diciamo che dire che una fermentazione è finita è molto difficile. È molto interessante questa cosa di appunto alcuni microrganismi che poi lasciano spazio a degli altri, cioè magari è finita la fase vitale di determinati esserini e poi ne comincia un'altra. Per esempio nelle verdure, quello che si fa per fermentare le verdure in modo acido lattico, diciamo, è creare un sentiero che è quello dell'ambiente salato, e lì già stai facendo una selezione di alcuni microrganismi, perché se tu lasci delle verdure, come può essere una compostiera, non ti fa la stessa cosa che fanno le verdure se ci metti il sale, quindi già stai un po' selezionando. Dei batteri cominciano a crescere, che stanno bene con il sale, stanno bene sotto l'acqua di queste verdure salate, e cominciano a crescere pian piano, con il loro processo vitale producono acido lattico. Il fatto che lo producano gli rende l'ambiente scomodo, cioè non diventa più un ambiente per loro, in cui per loro è possibile sopravvivere, per cui quel ceppo di batteri comincerà pian piano a diminuire, lasciando spazio a degli altri. Quindi è una cosa che è molto variabile, insomma è una cosa molto bella su questo, è che sembra che comunità forti rendono obsoleta la pulizia, la pulizia, perché non sterilizzando fanno tutto da sé, e quindi riescono ad avere un processo vitale che è chiaramente molto variegato, cioè ci saranno sicuramente, come nel vino, dei momenti in cui alcuni organismi sono più forti di altri, ma in un continuo scambio. Il calore è sicuramente quello che un po' mette fine a questa cosa, nonostante ci sono batteri che sopravvivono a temperature allucinanti sia in alto che in basso, insomma, quindi. Però la pastorizzazione è sostanzialmente questo, quindi sì, ci sono delle cose che fermentano a livello industriale, per esempio, e poi vengono pastorizzate, quindi la fermentazione sì, si ferma, come è per esempio il pane. Se no, ci sono quelle che restano più vive, che continuerebbero, diciamo, tra virgolette, all'infinito, ecco. Ho una domanda numero due. Quando si è persa, secondo voi, cioè in Italia magari, per dire, questa cultura del fermentato, però che sono tipo appunto delle verdure che fermentano? Perché mentre magari in Est Europa si vede che ancora c'è la tradizione e le fanno ancora, in Italia, per dire, io non ho mai sentito nemmeno una nonna dire facevo i cavoli fermentati, cioè una roba che mi sembra si sia persa prima. o quantomeno, diciamo, io non ho avuto ancora rapporto di conoscenza prima del mercato, di conoscere voi, certo. Diciamo, questo mondo qui per me era completamente inesistente. Cioè, io penso, allora, tendenzialmente, in generale, in tutto il mondo, dal momento in cui, poi magari torno su una cosa volevo dire prima, nel momento in cui sono arrivate fondamentalmente a basso costo lo zucchero, e quindi ha trasformato un sacco di conserve in conserve a base di zucchero, quindi le confetture fondamentalmente, già lì abbiamo perso una fetta di roba che potevamo fermentare o comunque pensare di conservare in altro modo, quindi lo zucchero a basso costo. Dall'altra parte la grande tradizione per esempio italiana della passata di pomodoro, che facciamo tutti pelati, ecco lì non è detto, ecco, che fosse quel processo lì effettivamente, cioè i pomodori al naturale in una salamoia possono essere conservati tranquillamente senza pastorizzazione perché vanno proprio incontro a un processo fermentativo. Il momento in cui questo c'è stato questo scollo, non, personalmente non lo so individuare, però sicuramente sono prodotti che fanno parte della nostra tradizione, che prima erano fermentati e adesso non lo sono più. Quindi i pomodorini al naturale, mi viene in mente l'oliva in salamoia, così come le giardiniere, magari non facevamo i crauti in Toscana, però le giardiniere in salamoia sono sicuramente prodotti che venivano fatti, e quindi da quella parte arrivano sempre di nuovo, perché arriva un prodotto a basso costo che è più semplice, l'aceto, diventano sottaceti, quindi le cipolline sottaceto erano molto probabilmente delle cipolline fermentate in salamoia. O il cetriolino, cetriolino sottaceto era un cetriolino in salamoia che naturalmente diventava acido come l'aceto, anzi in realtà più buono, perché l'acido lattico che si sviluppa grazie alla fermentazione acido lattica è un'acidità molto più piacevole, per quanto riesca a garantire dei pH molto bassi, che sono quelli che fanno diciamo rendere l'ambiente inospitale per tutti quei batteri di cui abbiamo paura, come il botulino. E quindi anche lì, per tornare indietro a questi processi fermentativi, per mettere questo prodotto su uno scaffale, tra virgolette, cioè noi li conserviamo fuori dal frigo questi prodotti, non è che dobbiamo conservarli in frigo. Perché? Perché fondamentalmente questi batteri lattici, nel caso delle verdure, sviluppano due processi molto interessanti. Il primo, cioè noi sappiamo benissimo, no? Il sale conserva. In che senso il sale conserva? Il sale conserva perché la roba sotto sale, come il cappero, alimento che magari consumiamo in Italia, che nessuno si penserebbe sia un alimento fermentato, è un alimento fermentato anche lui. O le salamoie, o nel caso ad esempio dei sauerkraut, quindi crauti, kimchi o altri tipi di verdure sotto sale, fanno sì che si sviluppi solo questo tipo di batterio, che sviluppa acidità, che fa sì che non si sviluppano altri batteri, quindi è una questione di conseguenze. Il sale conserva in questo modo, tramite la fermentazione, un prodotto ambitissimo dagli chef è la colatura d'alici, e anche lì è pesce messo sotto sale, come fanno in Corea. Quindi in realtà prodotti locali ci sono, ne abbiamo un pochino persi, sono un po' da riprendere e ritrovare. E però ad esempio nessuno si scandalizza in un salame, cioè il salame ci si mette il sale, poi ci sono quelli che magari ci mettono anche conservanti, però senza conservanti la carne non imputridisce ma stagiona, perché c'è il sale e perché poi arrivano muffe e batteri buoni, quindi è una questione di conoscenza e di cultura, dobbiamo riprenderlo. Se posso, non è nemmeno del tutto sparita secondo me come cosa, spesso non la chiamiamo così. Cioè, io invece ho esperienza di varie persone che lo fanno senza sapere che stanno fermentando, cioè che l'hanno imparato dalle nonne, che continuano a farlo. Penso che una differenza grossa sia la posizione geografica, e quindi in posti dove c'è meno accesso diretto alla grande distribuzione, e chiaramente le persone lo fanno ancora molto. Sulle Dolomiti chiunque fa ancora i crauti. Nessuno sa che sono, no, nessuno non lo so, però insomma pochissime persone li considerano fermentati, però li fanno tutte. Quello anche per una questione di accessibilità alla verdura fresca, lì per 7 mesi all'anno non c'hai nulla di verde che cresce e sei costretto in qualche modo a farlo se non vuoi prendere le verdure da 400 km più giù. E quindi un po' è una questione di necessità anche che porta a farlo oppure non farlo, come anche un po' cadere nella narrazione della dipendenza, cioè chi ancora non vuole del tutto dipendere da una grande distribuzione continua a farlo con metodi che appunto sono vari, e invece spesso nelle città questa cosa l'abbiamo persa. Quindi secondo me è vero, sono d'accordo sullo zucchero, penso che sia, cioè che il vero scarto grande sia la grande distribuzione così diffusa, e quando l'autoproduzione pian piano è sempre scesa. oltre che le ghiacciaie, perché comunque sono più recenti come metodo di conservazione. Però se penso a mia nonna, io quando gli chiedevo quando eri piccola come veniva conservato il cibo, mi dice la ghiacciaia, c'era la persona che portava il ghiaccio. Quindi cioè, è già stato un passaggio dopo, cioè siamo oltre come generazione a quello che era la conservazione unicamente fermentata, però c'è ancora chi lo fa e non lo sa magari. Per questo il sale era carissimo. Bene, vedi quante cose si scoprono. Niente, se avete ancora se volete darci al volo una ricetta così esatto, proprio estemporanea, e poi vi lasciamo andare. Una ricetta, magari una roba semplice ora per un suggerimento. È la più facile di tutte. Qualcosa che può fare chiunque, con verdure genuine magari, perché cambia effettivamente parecchio rispetto al risultato la qualità della verdura. E qui scatta lo spot, venite tutti in Piazza Tasso. O a Gavinana o alla Romola. Vabbè, sostanzialmente la salamoia è acqua e sale. Acqua e sale è una concentrazione che è variabile, ma che noi oggi consigliamo al 5%, che vuol dire che per ogni litro di acqua si usano 50 grammi di sale. Di solito una tazzina da caffè sono 100, quindi se fai 2 litri, però, oppure 3 cucchiai di sale grosso, detta in modo molto approssimativo. Un litro di acqua si fa sciogliere, se non avete la fortuna di vivere in campagna e bere l'acqua di fonte si consiglia di far bollire l'acqua, poiché il cloro inibisce chiaramente la fermentazione. Si fa bollire, si fa freddare, perché sennò si uccide tutto per la cosa che dicevamo prima, e poi sostanzialmente si tagliano le verdure, quelle che ci pare, della dimensione che ci pare, perché poi ognuno piacciono cose diverse, quindi ognuno vedrà da cosa trarrà più beneficio. Si mettono in un barattolo e si coprono di salamoia. Fine. Si lasciano chiusi, si lascia lì almeno 2 settimane, magari dando un occhio che insomma non cambi troppo, non diventi marrone, ecco, in quel caso no, e dopo 2 settimane cominciano a essere commestibili. Non tutto è buono così presto, ci sono cose che sono buone giovani, cose che sono buone invecchiate. Per capire se è buono, il vero criterio è l'intuito. Quindi se è una cosa che mangereste, mangiatela, se non la mangereste, non mangiatela, perché cose diverse, cioè insomma può far bene o male a seconda delle persone, ma soprattutto se lo stappi e fa le bolle va tutto bene, cosa che non è per nulla scontata secondo me da vedere, eh? Cioè, bene, ti prende un po' una sincope. Non sfiatate baratto. Perché sfiatano da soli, non usate 4 stagioni Bormioli. Esatto. Comunque, come ultimissima cosa volevo dire una cosa rispetto, prima avevi fatto un bellissimo collegamento su fermenti, industria e guerra, e quindi per creare cibo reperibile per gli eserciti. Uno dei risultati della microbiologia, a partire da guardare come funzionava il succo di barbabietola, ad oggi ha dei risvolti drammatici. C'è una delle principali fonti di armi chimiche, se si pensa all'armabotulino, all'antrace, sono armi che provengono da batteri. E oltre che essere usati come pesticidi per un sacco di farmaci, insomma mi sembra che è un mondo che fa la guerra ai batteri e fa la guerra con i batteri, che quindi una cosa importantissima per me di ricominciare a fermentare a livello di comunità non è solo che ci fa bene, perché vuol dire reintrodurre degli esseri con cui viviamo in simbiosi, quindi ci fa molto bene, ma è anche un ripopolamento microorganico in un mondo che fa la guerra ai batteri ovunque, con i saponi antibatterici, gli antibiotici, la sterilizzazione costante. Quindi ripopolarci con gli esserini che ci permettono di vivere, senza i quali non saremmo qua. Riprendiamoci i nostri batteri. Fate il chinci, non fate la guerra, riprendiamoci i nostri batteri. Esatto, e magari le prossime volte parleremo anche appunto dei batteri per ripopolare i nostri suoli, quelli per fare le per pulire, insomma ne abbiamo per tutte e tutti. Quindi vi aspettiamo nuovamente qua a Radio Contado, fateci sapere appena potete. Metteremo una canzone per voi, si chiama Fermentazione. Evviva. Dedicata a voi e grazie. Buon fermento. Non so se vi piacerà, credo di no. Da molti moltissimi anni, almeno svariati milioni, l'alcol si forma in natura per via della fermentazione. Non si può dire con esattezza da quando l'uomo si è dato l'ebbrezza. Antropologi affermano concordi che c'erano nelle grotte la notte facesse dei grandi bagordi. Infatti si pensa che alcune delle vecchie pitture rupestri le fecero mentre smaltivano una sbronza da veri maestri. In preda a ciucche sonore imbrattavano la roccia dopo aver bevuto per ore succo di frutta matta alla goccia. Allegrate la Grillo, al vice ubriaco fradicio, se Dio ci ha creato modello anche lui non era un cicò. Se vero come è noto che ci ha fatto immagine e somiglianza, sicuramente ci ha fatto dopo e si è preso una bella sbronza. balcone mise le mani su madre natura per mangiare e bere alla perfezione. E dopo millenni di palpeggiamenti che continuano tuttora, ha apportato grandi miglioramenti sia alla buffata che all'ubricatura. Aveva inventato il bicchiere già nell'età del rame, ma per prepararsi da bere bisogna aspettare le scienze egiziane. La prima etichetta divina infatti aveva sopra un faraone. Le piramidi e gli altri progetti sono trovate da grande Beone. Ed insegnavano da bere a tutti, dai greci romani fino all'Oriente. Tutti ne andavano così matti da farci attorno culti e credenze. Ma soltanto nel Medioevo si inizia a fare sul serio da cae. Monaci e frati per darsi sollievo diventarono sommelier. Si impararono a finare uvaggia, a far vino da spighe selezionate, fin quando anche l'ultimo dei foracci estrasse l'alcol dalle patate. Si è bevuto per fare arte, per fare guerra, per fare festa. E da come sapesse su questa terra gli ha quasi sempre girato la testa. Allegro del rato brillo, Alicio, Beaco, Fradicio, se vi ha già creato modello, anche lui non era lucido. Se è vero come è noto che ci ha fatto immagine e somiglianza, sicuramente ci ha fatto dopo e se si è preso una bella smonza. Allegro del rato brillo, Alicio, Beaco, Fradicio, se vi ha già creato modello, anche lui non era lucido. Ma fatto sta che mi ha fatto guai, in questa svolta collettiva, questo non doveva finire mai, questa smonza era cattiva. Apocalisse a cancellarci dal pianeta. Le dici che anche se non bastasse il vino si tramuterà in sidratta. Però se poi tutto quanto finisse va bene, ok, ce lo si è meritato. Ma se davvero via l'apocalisse vorrei proprio essere ubriaco. Allegro del rato brillo, Alticcio, ubriaco, Fradicio, se vi ha creato modello anche lui non era lucido. Se è vero come è noto che ci ha fatto immagine e somiglianza, sicuramente ci ha fatto dopo e se si è preso una bella sfonza. Allegro del rato brillo, Alticcio, ubriaco, Fradicio, se vi ha creato modello anche lui non era lucido. Ma fatto sta che abbia fatto guai in questa sbagna collettiva, questo in governo finirà mai, questa sbronza era cattiva. E rieccoci, siamo di nuovo, siamo sempre su Radio Contado @insiberia.net e abbiamo con noi una compagna della Terra Trema che insomma si è prestata per raccontarci le disavventure che stanno succedendo a Loncavallo, che è il centro sociale che ospita tantissime iniziative, compresa la Terra Trema. Ci senti? Sì, sì, vi sento bene. Ti sento bene, saluto tutti quanti, insomma, sono all'ascolto. Grazie infinite per tutto, e noi siamo venuti a sapere così un po', ci arrivava un po' di notizie di questo possibile, o certo, non lo so, ci direi te, sgombero del Loncavallo, cioè che ormai è un'istituzione su Milano, insomma, ci puoi dire, raccontare qualcosa? Ma sì, allora... Premetto che vabbè, insomma, la Terra Trema è una manifestazione che confluisce dentro lo spazio con Loncavallo, che fa parte di quella storia, e con Loncavallo, insomma, da vent'anni racconta porta appunto in una metropoli come Milano una narrazione sull'agricoltura contemporanea, la piccola agricoltura, quella appunto insomma che conoscete voi anche piuttosto bene, quindi ma una parte insomma di questo progetto arriva da Via de Grasso, per cui ti parlo come Terra Trema e ti racconto appunto una visione, diciamo, dal punto di vista nostro. Poi certo è un'altra narrazione quella che fanno proprio le persone che invece il Loncavallo lo animano tutti i giorni. Assolutamente. Però comunque noi nel corso, insomma, già durante l'ultima edizione della Terra Trema avevamo ben chiaro questa situazione paradossale che si è creata su una città come Milano, che appunto insomma, in qualche modo lavora per mettere una parola fine su questa storia che ha 50 anni, insomma, che fa avanti da 50 anni, 35 di questi sono stati passati appunto in Via Vattò, che adesso, per come funziona la città, insomma, sembra mettere insomma una X su questa occupazione, su questa storia, senza troppe possibilità di svolta. Diciamo di interlocuzione? Allora, appunto, qui per questo ti faccio una premessa, meno ne so sull'interlocuzione, è chiaro. diciamo, le economie di una città come Milano sono cambiate moltissimo, sono sempre state molto, diciamo, sul pezzo in questi ultimi 20 anni, sono cambiate in maniera velocissima, per cui è così anche i piani regolatori, così anche, diciamo, il potere d'acquisto. Vediamo, cioè, Milano non ha un problema solo, cioè, o perlomeno il Leoncavallo non è l'unica, diciamo, entità che ha un problema di sopravvivenza in una città come Milano. È impossibile prendere casa in affitto, è impossibile vivere in situazioni, insomma, un minimo gradevoli per chi non ha redditi piuttosto alti. E così, in questo tipo di contesto, anche un'esperienza come il Leoncavallo viene messa in discussione. Però, ripeto, non è l'unica situazione, no, no, diciamo, critica in una città, in un panorama come quello che Milano sta offrendo in questi decenni, un'eventualità di sfratto del Leoncavallo è una cosa, diciamo, che ci sta, perché comunque il piano regolatore ora permette anche di edificare, non più rispettando le volumetrie di quello spazio, ma erigendo grattacieli in altezza, come è successo proprio di fronte al Leoncavallo, e quella è una speculazione, insomma, diciamo, piuttosto raggiungibile. Adesso le quotazioni per il metro quadro in un'area come quella, per case anche molto, insomma, discutibili, però sono sui 6-7 mila euro al metro quadro, quindi lì, diciamo, moltiplicato per la metratura del Leoncavallo, questo è chiaro, diventa materia appetibile. Vabbè, fa gola, fa gola. Però nel Milano, insomma, però in questo momento rischia di perdere uno spazio che da 50 anni offre a, diciamo, alla sua popolazione momenti di, diciamo, proposta culturale, non solo, insomma, ma tutto tondo, in autogestione, senza dover, diciamo, partecipare a bandi economici, magari, insomma, disposti da fondazioni bancarie, e quindi questa possibilità Milano, con un eventuale sfratto del Leoncavallo, se la toglie. Chiaro, noi, avrei una domanda da farti, ma sicuramente state mettendo in atto, insomma, delle forme, insomma, di protesta, di solidarietà, eccetera. Ci puoi raccontare qualcosa o dare degli appuntamenti, se qualcuno volesse venire a sostenere, insomma, sì, il Leoncavallo? Allora, sì, già durante la terratrema, appunto, da la terratrema in poi, sono già avvenuti due momenti di tentativo di sfratto del Leoncavallo, uno il 10 dicembre e l'altro a gennaio il 24. In questi momenti noi abbiamo chiamato a raccolta, diciamo, la popolazione che anima la terratrema, quindi sia il pubblico che attraversa la terratrema per i 3 giorni, ma soprattutto le agricoltrici e gli agricoltori che partecipano. C'è stata una bella risposta, sono venuti in tanti, abbiamo allestito un mercato agricolo in tutte e due le occasioni, e poi, insomma, il Leoncavallo non è solo terratrema, anzi è molto, tanto di più, e quindi in quel contesto si sono anche presentate, diciamo, le figure che hanno animato il Leoncavallo in questi 50 anni. Nello specifico, l'ultima volta sono arrivati musicisti, perché sono tantissimi i musicisti e le musiciste che hanno trovato il Leoncavallo uno spazio per esibirsi, e poi questo spazio, e poi, insomma, chi più o chi meno lo ha fatto diventare, insomma, qualcosa di più, per cui l'ultima volta si sono accostati al mercato anche con DJ set Cosmo e Vererus. Adesso in qualche modo si sta lavorando per allestire qualcosa di simile il 19 di marzo, che è il momento in cui ancora l'ufficiale giudiziario, accompagnato dagli avvocati della proprietà, si presenterà in via Watteau per richiedere lo spazio. Quindi, e noi saremo di nuovo lì con gli agricoltori delle agricoltrici nella terra trema, mi dicono che le agricoltrici non esistono, sono contadine, sì, anche lì fanno problemi. No, e quindi insomma torneremo, diciamo, ad animare quella strada che nel corso dell'anno sempre animata, ci tengo a dirlo, perché Leoncavallo produce quotidianamente momenti di incontro, di proposta culturale, musicale, analisi. Una decina di giorni fa ha avuto luogo una manifestazione dedicata alla Palestina, ed è stata partecipata, insomma, cioè, è uno spazio che funziona, che tutto vuole, che piuttosto che sparire. E funziona, quindi... talmente bene che non ce lo vogliono più. Forse anche per quello. No, sto scherzando. Ci spera no, di no. Probabilmente è chiaro che, insomma, se c'è una volontà politica a livello governativo di sopprimere tutte queste esperienze in Italia e non solo a Milano, su Milano fa. C'è anche una, insomma, un aspetto economico più speculativo che vuole che su quel diciamo, spazio lì venga edificato dell'altro, perché insomma comunque sicuramente quello è chiaro. Quindi possiamo dire a chi ci sta ascoltando che c'è un possibile ritrovo, insomma, per chi volesse venire a sostenere il Leoncavallo il 19 marzo, sì. E se volessero maggiori informazioni o essere sicuri, insomma, che c'è qualcosa o seguire altri eventi, c'è un sito, un riferimento, dei contatti, allora, una mail. Sì, noi il 19 saremo Leoncavallo alle 9 del mattino in via Vatto. Magari ti dico anche, appunto, il 18 Leo si ritrova in via Mancinelli, perché lì cade l'anniversario dell'uccisione di Fausto Pinelli e Lorenzo Iannucci. Sono 47 anni che sono stati uccisi, quindi per mano fascista, quindi diciamo queste due occasioni, il 18 e il 19, il Leoncavallo è chiamato, insomma, a dire delle cose a Milano, e quindi il 18, cioè questa occasione, il 19 dalle 9 saremo in via Vatto. Ti posso dire che noi sicuramente pubblicheremo qualcosa sulla terratrema.org, il Leoncavallo farà lo stesso adesso. Perfetto, quindi sarà leoncavallo.org anche quello. Vabbè, lo andremo a cercare, così lo linkiamo, insomma, per chi riascolterà questa puntata o per chi ci sta ascoltando e vorrà trovare informazioni. Tanto ti ringraziamo, insomma, per averci dedicato questi aggiornamenti, seppur tristi, e magari no, poi se posso chiudere, noi ci auguriamo che questa possibilità di incontro sia occasione anche di creare qualcosa, insomma, in qualche modo vada a contrastare questa possibilità. C'è bisogno di riunirsi, di ritrovarsi, di cospirare, insomma, perché di autogestione si sta parlando anche almeno su Milano molto poco, le possibilità di, insomma, di aggregazione per, insomma, il modello dei cosiddetti centri sociali sta subendo tanti attacchi, insomma, decreto sicurezza cercherà di dare un'altra bastonata a questa occasione anche di discutere di quello e di ritrovarsi, insomma, rifarsi un po' le ossa. Quindi ci auguriamo che queste cose tristi, che non avvengano, seconda cosa, che magari ci ridiano la forza, la voglia di incontrarci e di ritornare un pochino a fare, insomma, qualcosa, almeno sia quello, insomma, almeno ci sia questo. E con questo augurio di attiviamoci per difendere i nostri spazi e le cose belle e importanti, noi ti salutiamo, grazie davvero. Io ti ringrazio tanto, a te un bacio, ciao, buon pomeriggio, ciao. Ciao, ciao, ciao.

che organizza delle cose insomma importanti, meravigliose, uno spazio storico. E parliamo del Forte Prenestino, dove a metà marzo avverrà, come di consueto, Enotica, insomma, questa rassegna enogastronomica di cui insomma chiediamo un po' al nostro inviato romano, insomma, uno degli organizzatori di Enotica, di raccontarci un po' meglio. Ci senti? Sì, risento. Oh, perfetto. Intanto grazie mille per essere con noi a Radio Contado. E si avvicina Enotica, insomma, siamo un po' in anticipo, però poi non avremo altre puntate e vogliamo far sì che comunque le persone sappiano bene che cosa succederà a metà marzo e per invitarle a esserci. Quindi parlaci un po' di Enotica, co come nasce, che cos'è, che si farà. Sì, ha detto bene, Enotica si terrà dal 14 al 16 marzo al Centro Sociale Forte Prenestino, a Centocelle, quartiere Centocelle a Roma. È un'iniziativa sul vino e il cibo critico, diciamo. Infatti in questi 3 giorni, questa è la tredicesima rassegna che noi organizziamo e invitiamo vignaioli, contadine, piccole aziende, piccole realtà agricole che nel corso degli anni abbiamo conosciuto, con cui abbiamo instaurato un rapporto di amicizia, di trasparenza, di fiducia, ma anche di solidarietà, insomma. Sappiamo del loro legame, diciamo, come posso dire, con la terra, sappiamo come la lavorano, della qualità dei loro prodotti, sappiamo delle battaglie che quotidianamente portano avanti per sopravvivere, diciamo così, e per esistere, insomma, le leggi del mercato, perché per piccole realtà agricole è difficile sopravvivere, specialmente in questo periodo, insomma, storico. Noi in realtà invitiamo anche delle reti, reti che abbiamo anche contribuito a far nascere e crescere come Genuino Prenestino. Infatti, gran parte delle cucine collettive sono legate a Genuino Prenestino, appunto, oppure reti locali, come quest'anno abbiamo invitato una cucina siciliana nella zona Enna, insomma, intorno a Enna, si chiama Eretica e è una rete di permacultura. Quindi no, non solo vino etico, ma anche cibo etico, insomma, Ma tutto anche che cibo abbia enetica. che rispetti, insomma, un po' le caratteristiche del genuino e non grande distribuzione. Sì, diciamo che a differenza di Critical Wine, organizzata, noi abbiamo ospitato nel 2003 un Critical Wine che ci ha proposto Veronelli, che molti conosceranno, insomma, un enologo anarchico, insomma, che ha iniziato a parlare di cibo in un certo modo, di vino in un certo, più che altro di vino in un certo modo. E nel 2003 abbiamo organizzato un evento qui a Forte Prenestino, si chiamava Critical Wine. Poi nel 2004 Veronelli è morto, però noi abbiamo continuato a occuparci di queste tematiche, insomma. Così abbiamo iniziato ad avere rapporti con contadini, vignaioli, eccetera. Abbiamo iniziato costruire mercati sia dentro il centro sociale, ma anche nel quartiere. Il nostro quartiere è un quartiere popolare, Centocelle, insomma, e quindi ci interessava stare anche sulla piazza, insomma, oltre che nel nostro spazio. E diciamo che poi è nata Terra Terra, che è un'associazione di contadini, di trasformatori, di vignaioli, così, e per qualche anno abbiamo provato a fare questa 3 giorni, però in maniera molto ridotta. Dopo abbiamo pensato nel 2011 di organizzarla, insomma, organizzarla più grande, insomma, così, e l'abbiamo chiamata Enotica. Enotica, che è un connubio vino, cibo e Eros. Insomma, alcuni anni lo organizziamo, e spettacoli erotici, così, ma quest'anno c'è poco. E quest'anno, cioè, abbiamo aggiunto rispetto a Veronelli il cibo. Veronella si occupa più prevalentemente di vino, noi abbiamo aggiunto il cibo. E all'inizio invitavamo dei produttori singoli a cucinare, a trasformare i prodotti che producevano, insomma, così, e a trasformarli in cibo. E poi abbiamo pensato alle cucine collettive. Infatti, una delle prime esperienze di cucine collettive è avvenuto al Forte Prenestino, poi si è diffusa in tutta Italia. Adesso praticamente le reti anche di Genovina Clandestino, ognuno ha una cucina e partecipa a eventi, insomma, più o meno grandi, insomma. Bene, quindi ci puoi dire qualcosa, insomma, dal venerdì sera sarà un po' di programmazione? Sì, dal venerdì alla domenica sera, sono 3 giorni, ovviamente noi abbiamo invitato una cinquantina di produttori, di vignaioli, scusa, una cinquantina di vignaioli, e ci saranno sette cucine collettive. Abbiamo invitato una cucina palestinese, ci sono dei birrifici artigianali, anche dei trasformatori singoli provenienti un po' da tutta Italia, perché, come ho detto prima, l'iniziativa abbiamo iniziato nel 2011, ma è cresciuta e adesso ha una dimensione nazionale, e è cresciuta anche numericamente. La 3 giorni, praticamente, nella 3 giorni il forte viene attraversato da circa 20-22 mila persone, quindi capite quanta risonanza, esatto. Quanta risonanza ha questo evento, e quanta importanza anche per un centro sociale come il nostro. Diciamo che il forte come struttura può accogliere grossi eventi. Il forte, praticamente, noi abbiamo occupato 36 anni fa questo forte, che risale al 1870, che era abbandonato completamente, e l'abbiamo trasformato, ne abbiamo cambiato, come si dice, la destinazione d'uso. Da forte militare l'abbiamo trasformato in un centro sociale, e ci costruiamo iniziative più o meno piccole, molte di solidarietà politiche, ma anche iniziative grandi come Nodica. Che comunque sono di solidarietà e servono per promuovere una certa cultura del vino, che, insomma, al giorno d'oggi, sì, non è semplice e scontato, e anche del cibo. Quindi... Vino e cibo, sì. Noi non invitiamo soltanto vignaioli e contadini, invitiamo anche realtà che hanno bisogno di solidarietà, così. Per esempio, per un paio d'anni abbiamo ospitato GKN, che aveva una cucina e aveva bisogno di finanziarsi, e l'abbiamo ospitata. Quest'anno ospiteremo invece una cucina palestinese. Una cucina palestinese, questi sono un gruppo dell'UDAP, che è praticamente l'Unione Democratica Arabo-Palestinese, è un'associazione che si occupa di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche, ovviamente, palestinesi, insomma. Così. E quindi lasciamo anche spazio a questo tipo di situazioni, insomma, così. Che ci sembra molto importante. Noi ti ringraziamo. Allora, invitiamo tutti. Posso dire un'altra cosa? Che secondo me è importante. Siccome, come ho detto, Enotica dentro Enotica, dentro la Tre Giorni, ci sono tante cose. E abbiamo avuto ultimamente difficoltà a organizzare riunioni, dibattiti, approfondimenti. E dall'anno scorso abbiamo pensato di scrivere un opuscolo, di far uscire un opuscolo che approfondisce appunto le tematiche che, di Enotica, insomma, che stanno intorno ad Enotica. Quest'anno abbiamo diviso l'opuscolo in quattro sezioni: guerra, cibo, contadinità e resistenza operaia. Oh, bello, interessante. E dove si può trovare questo opuscolo? Sta in stampa a Enotica. A Enotica, poi lo diffonderemo, insomma, così. Vabbè, però chi lo vuole subito a Enotica, le prime stampe, sì, poi comunque verrà diffuso stampe, perché ha dei contenuti interessanti. Certo, certo, sì, sì. Bene, grazie mille, ci vediamo a Enotica. Vi ringrazio. A te. Ciao a tutti. Ciao. Buon pomeriggio. Arrivederci, arrivederci. Ciao. No, non sono uno del branco. Cancellatemi dalle vostre agende, figli dei figli, ma di quali fiori? Diluite le vostre droghe! Tasse, le pagano le masse, milioni di milioni li rubano i padroni, tutte le carceri salteranno in aria, che l'unica giustizia è quella proletaria. Il potere deve essere operaio, ma io senza obiettare mi son chiuso nell'apiario. Brandelli di battaglie, ricircolate bene, in vita atomizzate, riciclo delle pene, da che le mie bandiere non trovano più lutto. Io pago tutto caro, pago anche ciò che butto. La fantasy al potere ce l'hanno ricomprata, per la pace interiore non gliel'abbia svenduta. Mindful. sex. Self sex. Self sex. Oh, un po' di musica diversa, rieccoci. Ringraziamo Pippo per averci fatto scoprire questo fantasmagorico gruppo. E quindi niente, dopo questa canzone psychedelic, noi non poteva mancare in questa puntata la nostra fighissima rubrica Bello andare a vivere in montagna ma. E siccome è bello ma non prende praticamente mai il telefono, noi abbiamo fatto una registrazione alla nostra cara amica Chiara e quindi ora vi mandiamo quello che lei ci dice a riguardo della bellezza e delle sfighe della montagna. Buon ascolto! Allora, ci sono sfighe, disagi legate alla natura stessa del territorio di montagna. È sempre tutto in salita, è sempre tutto pieno di fango, è sempre tutto faticoso. Ci sono stagioni in cui se devi scendere a valle non ti puoi dimenticare di mettere in macchina la motosega, perché non è che è un'eventualità, è una certezza che troverai gli alberi caduti lungo la strada o piccole valanghe da spalare e non puoi contare che qualcuno se ne occuperà per te, che è però è anche una cosa bella, ti senti responsabile del territorio su cui vivi. Dei casini ci sono, e l'anno scorso che mezza Toscana era finita sott'acqua noi siamo rimasti 5 giorni e 6 notti senza corrente elettrica e con 6 mesi di lavoro nei congelatori. In Vallata il comune aveva piazzato i generatorini di emergenza, nessuno ci ha cagato nessuno. Per fortuna di generatore noi ci avevamo il nostro, però ecco, devi fare sempre tutto da solo, devi tenere presente qualsiasi eventualità possibile e immaginabile, e in un'epoca in cui le persone sono totalmente disabituate e disincentivate a sopperire da sé ai propri bisogni, a autogestire le proprie vite, le proprie necessità, e la gente è schiava del mondo dei servizi, che siano per la salute o che sia l'idraulico, la gente dalle montagne se n'è andata. Noi abbiamo visto gli antichi registri parrocchiali tipo censimento che dicevano che a metà Novecento in questa valletta ci viveva una comunità di 300 persone, ora siamo 2. Poi c'è il rapporto col selvatico. Capita che alle 2 di notte devi uscire di casa, senti cani nervosi, senti cani che abbaiano, sai che c'hai i lupi che girano intorno alla stalla e prendi, esci alle 2 di notte e vai a, insomma, dare mano ai tuoi cani che fanno il loro lavoro. Però in città ogni tanto mi capitava che alle 2 di notte mi alzavo e uscivo di casa perché c'era la polizia della strada e la municipale che rimuoveva le macchine. Quindi ecco, magari ogni posto c'ha le sue. Senza dubbio per una persona come me, nata e cresciuta in città, a Roma, l'emozione di vedere la prima volta un cervo, un lupo è impagabile. Quando vedi l'istrice che fa quel rumore di cannuccetti al vento con gli aculei quando cammina, o le notti ghiacciate che esci e c'è il concerto degli ululati dei lupi, e come si fa a chiamare le sfighe? Io mi sento privilegiata a viverci in mezzo a questi animali, però allo stesso tempo devi trovare il modo di mandare avanti un equilibrio che prevede che te comunque trovi il modo di proteggere poi i tuoi animali, le tue colture, quelli che poi sono i tuoi mezzi di sostentamento. E è un po' di conflitto, c'è. Il problema si aggrava per la presenza antropica che non consente di vivere serenamente delle soluzioni che sarebbero quelle più naturali. Io appunto magari non posso lasciar svolgere fino in fondo per bene il lavoro ai miei cani perché ho gli escursionisti intorno a casa, e quello lì però non è un problema che c'hai nel rapporto con i selvatici, è un problema che c'hai nel rapporto con gli altri fruitori del territorio, perché la fruizione del territorio spesso e volentieri non è compatibile con il viverlo, con un certo tipo di attività. E è un po' questo il punto, i miei disagi maggiori vengono dal tipo di fruizione della montagna che c'ho intorno, che è una fruizione che trasforma il territorio in merce di consumo senza nessun riguardo per il fatto che quel territorio ci avrebbe dinamiche e caratteristiche sue proprie, che è vivo, con degli abitanti, con una storia. E questo qui è un modello di consumo, intanto non per tutti, solo per chi se lo può permettere. È un modello urbano. Chi consuma questi territori scappa da delle città che considera invivibili, però in montagna vuole ritrovarci comfort, i servizi, le connessioni, la digitalizzazione, le regole delle metropoli da cui scappa. Questo ha un impatto devastante sui territori da un punto di vista ecologico, con proprio interi ecosistemi selvatici messi completamente in crisi dalle attività umane, dalle infrastrutture, ma anche solo dall'iperconcentrazione di chi li frequenta questi ambienti. Da un punto di vista sociale, cioè altro che sviluppo locale, lì dove ancora sarebbe possibile un'economia circolare, di prossimità, eccetera, eccetera, chi faceva il contadino e produceva il famoso cibo sano e sostenibile, ora fa il giardiniere delle seconde case. Perché? Perché guadagna il triplo. E attenzione, questa spesso e volentieri non è una scelta, perché dove arriva un certo tipo di economia, i prezzi triplicano. In primis quelli delle case, ma poi anche quelli di tutto il resto, e dove il prezzo triplica con lo stipendio che rimane un terzo, le persone non si possono permettere di continuare a vivere quel territorio. Così chi era un piccolo allevatore è costretto a riciclarsi in fattorie didattiche, agriturismo e eccetera. Chiunque volesse svolgere una delle tante attività che sono sempre state alla base della sopravvivenza in montagna, che sia macinare le castagne, fare il formaggio, fare il pane, il falegname, come destino c'ha di fare il figurante in una cartolina vivente di un mondo che però non c'è più, è un racconto fittizio. La vita vera non è una cartolina, è caotica, è disordinata, non è fatta solo di prati verdi con gli abeti sullo sfondo, è fango, è gli attrezzi arrugginiti per lavorare la terra, sono i cani che ringhiano se ti avvicini al gregge e corri, o strilli scomposto. Il vero disagio è negare questo. Io lo considero un vero e proprio consumo di suolo sconsiderato, la turistificazione delle montagne. Questa cosa qui, questo fenomeno, si estremizza quando c'è la trasformazione in divertimentificio, che è soprattutto nelle zone sciistiche, nelle località di neve, dove proprio lì le necessità della vita normale spariscono completamente, totalmente soppiantate dal baraccone dello sci. per comprare una bombola del gas, le catene della motosega, c'è una bottega ogni tre paesi, però in un paese ci sono tre botteghe che vendono l'abbigliamento tecnico da sci, da escursionismo, d'estate, mo lo sproloquio sull'abbigliamento tecnico superfluo e consumistico lo risparmiamo, però per chiarire questo concetto qui racconto una cosa. Qualche giorno fa ho partecipato a un'assemblea di genuino clandestino in un posto, si chiama la Bisabboca, sull'Appennino bolognese, credo. C'era appeso una foto dentro questo posto e c'era la foto, era di una mobilitazione, non so se era un corteo, un presidio, c'erano delle persone che reggevano uno striscione con su scritto: vogliamo neonatologia, non un'altra funivia. Ecco, quello striscione lì e riassume meglio di 100 discorsi quali sono i disagi di tanta gente che prova a continuare a vivere sulle montagne. Per quello che mi riguarda, per quello che penso io, questi disagi, l'unico modo di affrontarli è questi disagi, questi meccanismi malsani, l'unico modo di affrontarli è costruendo delle comunità che siano vive, che questi posti ci siano persone che scelgono di viverli, di lavorarci, di costruirci un'esistenza che sia vivere non in montagna ma di montagna, e che quindi riprenda il contatto con una serie di attività, una serie di stili di vita, di modi di stare che sono altri da quelli urbani, consumistici, capitalisti a cui siamo abituati. Da solo lo fai male, naturalmente devi riuscire a costruire delle comunità, perché da solo c'è poco scampo a questo tipo di robe. E quindi dai, vivere in montagna è una scelta faticosa, è una scelta impegnativa, è una scelta dura, però è una scelta anche figa, è una scelta che dà soddisfazione, è una scelta con cui ti metti alla prova, impari a fare da te, impari a fare a meno, e questo è una soddisfazione quando ci riesci e vedi che funziona e vedi che va bene, è una soddisfazione grandissima. E poi una volta che sei un po' entrato dentro, ti regala dei momenti bellissimi. La montagna è bellissima, gli animali, le piante, è bellissimo. È una scelta soprattutto di resistenza a un sistema mortifero di merce, di consumo, di nocività, di malessere. Quindi dai, venite a vivere in montagna. Che quello che serve alla montagna sono i montanari, poi la libertà di ricominciare a costruire economie circolari e di sussistenza, spazi di socialità non mercificati e molto rispetto per la montagna e per chi la abita, gli umani e soprattutto i non umani. Ringraziamo Chiara, insomma, per questi suoi racconti, e dalla montagna riscendiamo in città. Esatto, anche torniamo su Firenze, dopo aver fatto Milano-Roma, torniamo da noi per parlare un po' di alcune iniziative che coinvolgeranno la nostra comunità di resistenza contadina, ma non solo, e abbiamo con noi al telefono Grace. Ci senti, ciao. Grace? Sì. Eccoci. Ciao. Ciao. Senti, volevamo parlare un po', e se ci puoi raccontare cosa succederà nei giorni del 5 e del 7 marzo. Sì, come no, certo. Allora, avevo pensato un po' di iniziative. Allora, innanzitutto, beh, magari parto col disambiguare chi siamo noi. Parlo per conto di, a nome di, anche parzialmente, insomma, di una realtà non mista di persone trans, che si chiama Campeggio Trans, e ci organizziamo da circa 3 anni con degli appunti semestrali che appunto sono non misti. Il primo è stato un campeggio d'estate, facciamo effettivamente un campeggio, che è il motivo per cui insomma ho scelto questo nome, dove siamo insomma tendenzialmente persone compagne, anche se il giro è un po' più allargato, non strettamente insomma così circoscritto strettamente alle persone compagne come le possiamo intendere, e insomma riflettiamo di una serie di questioni che ci concernono in modi più o meno diretti da una prospettiva intersezionale. E quindi questo, e niente, abbiamo deciso di convergere su Firenze un po', appunto cerchiamo degli appuntamenti intermedi per vederci tra poi dei momenti di più giorni che troviamo 2 volte l'anno, e Firenze era una situazione in cui trovarci per una serie di motivi e che magari vi elenco, non so se volete introdurli voi. No, vai, insomma, noi credo che come comunità di resistenza contadina avevamo voglia, no, e interesse di confrontarci con questa realtà e sapere un po' quello che ci raccontate voi. Certo, ok. Allora, mercoledì 5 all'Assemblea Contadina ci sarà una azione a partire da Transnet Transhuman che è un opuscolo di 80 pagine, in realtà abbastanza corposo, che fondamentalmente analizza la questione transumana da una prospettiva trans, e quindi si prefigge l'obiettivo di scindere una narrazione che molto spesso viene portata avanti, specialmente dai giri anti-tech, per cui tutto ciò che sono le esperienze trans in qualsiasi loro forma o anche in specifiche loro forme è implicitamente, automaticamente una manifestazione di transumanismo, una strizzata d'occhio al capitale, bla bla bla. Questo insomma questo nasce da dei dibattiti. Io non sto seguendo personalmente queste comunità politiche, però ovviamente sono stata un po' messa al corrente delle dinamiche che ci sono state ultimamente, nella fattispecie dell'esclusione da una serie di contesti di lotta ai nuovi OGM, di fondamentalmente resistenza al nanomondo, che è una realtà transfobica animata da 2 persone che in più occasioni hanno espresso posizioni transfobiche, motivo per cui si è pensato di fare questa formazione. Esatto. Ok. Sì, esatto, siamo incappate spesso, diciamo, ultimamente, occupandoci appunto della tematica dei nuovi OGM, in situazioni appunto in cui ci interessava poi disambiguare proprio questo concetto trans da quello di transumano, in modo insomma da appunto poter respingere tutta una serie di personalità, ma anche appunto magari approfondire proprio noi all'interno della nostra assemblea questa tematica. Quindi ci sembrava molto interessante questo opuscolo, tra virgolette, perché come dicevi te è molto lungo, e ci fa super piacere il fatto che ci sarà anche l'autore di questo opuscolo con noi, sì. Diciamo. Sì, e l'opuscolo è stato scritto da Anarcoqueer, e dove tra l'altro è reperibile, anarcoqueer.noblogs.org, per chi volesse scaricarlo, stamparlo, e quindi sicuramente la chiacchiera è quanto più urgente, doverosa, nel senso, no, nel menzionare poi una specifica realtà politica, il rischio è che si pensi anche che poi magari il problema sia strettamente lì, quando in realtà c'è idee di questo tipo, cioè che accostano proprio quella che è la varianza di genere, proprio tra persone umane, a quello che è un disegno politico transumanista è purtroppo una deriva abbastanza diffusa in modi più o meno manifesti, però ecco, non è una questione che si sente nominare strettamente a due bocche, quindi sicuramente è una buona occasione per parlarne, anche perché spesso e volentieri sono posizioni che vengono da proprie idee preconcettuose, disinformate il più delle volte, disinformate perché tendenzialmente buona parte della sorgente di queste posizioni comunque si basa sulla disinformazione, anche abbastanza grave, anche abbastanza viziosa, se vogliamo. E quindi sì, ecco, sicuramente è un buon momento di confronto anche proprio per dotarsi di strumenti di analisi, no? Esatto, sì. E invece per quanto riguarda il venerdì, ci sarà proprio un'iniziativa al mercato contadino che poi si concluderà in Via del Leone. Invece ci vuoi dire un po' di cosa parlerà questa iniziativa? Allora, per quanto riguarda venerdì, il pomeriggio in Piazza Tasso ci sarà un'iniziativa sulla detenzione trans. E come campeggio abbiamo iniziato a seguire la questione della detenzione trans ormai un paio d'anni fa. Questa cosa è stata mossa da esigenze anche molto personali, nel senso, banalmente la domanda di ok, che succede se e quando capita a noi, perché comunque è un fenomeno abbastanza sommerso, abbastanza avvolto da lacune a livello sia di conoscenze sia proprio lacune normative, per quanto non sia simpatico parlare di norme e leggi, sicuramente hanno un ruolo nel momento in cui si sta in discussione totale del carcere. E quindi nulla, partendo appunto da proprio degli interrogativi personali che erano un po' pressanti per qualcuno di noi, abbiamo detto ok, magari iniziamo a documentarci, iniziamo anche a portare in giro dell'informazione su quello che è il fenomeno della detenzione trans in Italia, non strettamente in Italia anche, e quindi nulla, stiamo portando in giro una serie di appuntamenti, in tutto ciò stiamo cercando parallelamente di intestare percorsi di solidarietà con delle persone trans detenute. Questa cosa è molto complessa per un sacco di motivi, nel senso comunque il livello di segregazione è importante sotto vari punti di vista, e non solo, di fatto le uniche persone trans di cui si sa come persone trans detenute sono le persone trans femminili, che hanno delle sezioni apposite, però le persone trans mascoline non sappiamo neanche dove siano, sicuramente ce ne sono, ma non sappiamo dove, cioè si trovano all'interno di istituti femminili, sono persone registrate come donne dal carcere, e quindi è molto complesso, a meno che non ci siano proprio contatti diretti nel momento in cui una persona finisce dentro, è molto complesso proprio reperire anche soltanto informazioni al riguardo. E quindi ecco, insomma, sarà una chiacchiera su questo, sull'attuale stato delle cose, con una mappatura quanto più possibilmente aggiornata della situazione nei vari istituti italiani. Non tutte le carceri hanno una sezione trans, anzi sono abbastanza contenute come numero, sì. E quindi questo. E poi ci spostiamo all'occupazione in Via del Leone in serata, e per un'iniziativa Benefit Magnifica. Bene. Ma non finisce qui, perché farete anche uno spezzone al corteo dell'8 marzo, giusto? Uno spezzone al corteo dell'8 marzo, esattamente. E nel pensare, insomma, questi giorni a Firenze, abbiamo detto ok, visto che la data cade a fagiolo, ma perché no? Perché non portare una presenza trans manifesta all'interno di un corteo comunque abbastanza allargato, abbastanza di ampio respiro? E quindi ecco, pensavamo di fare uno spezzone trans, ecco, e sì, fondamentalmente secondo me vabbè, insomma, non lo sto autodicendo in quanto persona trans, però non so, io penso sia necessario, nel senso, credo che comunque una serie di proprio realtà politiche, movimenti femministi negli ultimi anni non so, riusciti a guadagnare sicuramente molto seguito, è anche molto bello, è bellissimo vedere delle piazze molto molto partecipate, è meraviglioso. Contestualmente c'è sicuramente una corsa proprio ad ammantarsi del termine transfemminismo in un modo molto, molto critico anche, quando poi effettivamente ci si guarda intorno e ci si chiede un po', ok, sì, bene, ma una fetta delle persone a cui questo transfemminismo si rivolge, per le persone trans, ma dove sono? Non ci sono. E quindi ecco, questa è una presenza manifesta, è sicuramente qualcosa, oltre a essere tendenzialmente molto molto bello, non è la prima uscita che facciamo creando degli spezzoni specifici. Si creano anche dei bellissimi momenti in piazza, nel senso, tendenzialmente arrivano persone dicendo tipo ah, allora mi unisco anch'io, ed è molto bello. Questa cosa è successa l'inverno scorso in un corteo per la Palestina a Napoli, è stato veramente potente, è stata un po' improvvisata, era tipo ma perché non portare uno striscione, e alla fine niente, si è creato questo spezzone frocio all'interno del corteo che era completamente inaspettato e molto, proprio molto bello da attraversare. E quindi sì, ecco, la speranza di ricreare un po' un qualcosa del genere. Bene, bene, ce lo auguriamo. Soprattutto, insomma, per chi vuole informarsi, perché appunto purtroppo, insomma, no, cioè un'informazione parziale, strana e poca, soprattutto, insomma, ben tre occasioni a Firenze dove poterci incontrare e confrontare. Grazie per la vostra disponibilità. Ricordiamo le date? Sì. Che sono mercoledì 5 all'Assemblea Contadina, venerdì 7 in Piazza Tasso e poi Via del Leone, e sabato 8 marzo. Perfetto, bene, quindi noi ci vedremo settimana prossima. Molto volentieri. Grazie. Dai, grazie mille allora. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Their arms are like an angel through the car sunroof. Attenzione! Gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali. Si chiamano TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente. Ed eccoci, questa è la sigla che ormai introduce e ci perseguita al nostro ormai ospite speciale, ospite d'onore, fisso, esatto, Francesco. Ci senti volta, Francesco? La prossima volta dal vivo però, eh. Ma volentieri, buonasera a voi e alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Oh, lo abbiamo avuto in realtà dal vivo da noi la scorsa settimana al mercato di Piazza Tasso, quindi non possiamo fargli fare su e giù per l'Italia come già fa di continuo e ti telefoniamo. Fantastico. Allora, noi siamo rimaste indietrissimo con questa storia OGM per quanto riguarda la nostra radio, perché siamo rimasti a fine anno, quindi nel frattempo sono avvenute un sacco di cose, tra cui abbiamo fatto, diciamo, un paio di mail bombing che hanno portato a dei piccoli risultati. Ci vuoi dire un po'? Assolutamente, beh sì, in effetti è una campagna in cui non ci si annoia, siamo riusciti a non annoiarci, per cui abbiamo fatto succedere tante cose insieme e... Appunto, partendo da quelle che stavate elencando, c'è stato questo mail bombing contro le aziende biologiche che partecipano alla sperimentazione in campo di nuovi OGM, tra queste c'è una società che si chiama Edivite e vorrebbe, questo non è chiaro, sperimentare una vite ottenuta con tecniche, nuove tecniche genomiche a Padova. E poi abbiamo l'azienda Stuart di Parma che nella sua sperimentazione insieme al CREA, quindi il centro di ricerca del Ministero dell'Agricoltura, vorrebbe piantare un pomodoro NGT, TEA, OGM, come volete chiamarlo, in un terreno che loro dicono essere convenzionale, ma che è confinante con altri loro terreni che sono certificati biologici. Quindi quello che abbiamo fatto insieme è stato costruire questo invio massivo di mail per chiedere a queste realtà di smettere immediatamente la sperimentazione e di dirlo pubblicamente che non l'avrebbero mai iniziata. Abbiamo avuto un po' di risposte, poi queste non ci soddisfacevano e quindi siamo anche arrivati a scrivere ai certificatori di queste aziende, quindi l'ICEA e un altro ente di cui mi sfugge un attimo il nome, magari voi ve lo ricordate, al quale abbiamo chiesto... Valori, mi sembra. Esatto, Valori Italia. Valori Italia, Ital Valori. Più o meno. E sostanzialmente questi hanno risposto, chi privatamente, chi pubblicamente, chiaramente loro sanno che qualunque azienda biologica che introduca organismi geneticamente modificati anche in via sperimentale sul proprio terreno perde la certificazione, quindi hanno fatto capire molto chiaramente, soprattutto a quella di Padova, che se si azzarda a fare un'operazione del genere perderà la certificazione. Ora ci toccherà monitorare, non è una cosa facile, ma lo vogliamo assolutamente fare, anche perché poi a valle di tutto questo si sono espresse anche le grandi associazioni di categoria del bio come AIAB e Federbio, con delle note pubbliche oppure stimolate da articoli di giornale, che li hanno costretti a venire allo scoperto e a dire ancora una volta molto chiaramente che non c'è compatibilità fra gli OGM e il settore biologico. Esatto, ma mentre il settore biologico un minimo si è espresso, si sono espressi però anche i sindacati di categoria. Assolutamente sì, chiaramente visto il montare di una polemica che abbiamo, fortunatamente siamo state brave bravi a far crescere insieme noi, c'è stata questo tentativo di riaffermare invece il favore verso l'introduzione dei nuovi OGM da parte di Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, che si sono portati dietro Lega Coop e altri soggetti che fino a quel momento non avevano molto, come dire, fatto di questo tema un loro tema di bandiera, e questo chiaramente è un grosso problema, perché Lega Coop al suo interno contiene la Coop e il Conad e quindi vuol dire che i supermercati in qualche modo da silenziosi sono diventati quasi favorevoli. Sì, esatto, da un lato almeno il nemico si palesa, mentre finora tutti tacevano, almeno sappiamo anche la posizione per esempio di Coop adesso, cosa che non ci rassicura, ma non è che avevamo grandi speranze al riguardo. Però sappiamo sì, magari su chi poter puntare il dito prossimamente. Questo senza dubbio, perché ogni passo pubblico che fanno queste realtà si prestano poi a future campagne. Però sulla Coppa secondo me c'è ancora un punto interrogativo, nel senso che Lega Coppa agisce con delle determinate con determinati interessi politici, ma Eurocoop, che è la mamma di tutte le coppe in Europa, è invece molto chiaramente schierata contro il nuovo OGM, quindi c'è un conflitto lì dentro che va un po' snidato, stanato e portato alla luce. Ai, ai conflitti madre figlia. E l'adolescenza. Sì. Ma invece ti volevamo dare degli aggiornamenti anche noi, così un po' ti sorprendiamo anche noi invece di chiedere sempre a te. Perché, come tu ben saprai, era stata fatta, diciamo, un prototipo di delibera da presentare ai vari comuni per farli dichiarare comuni liberi dagli OGM vecchi e nuovi, e sappiamo sì. che il comune di Poppi è stato il primo in Europa addirittura a diventare appunto comune libero da, anche dai nuovi OGM. Ma il 12 novembre era stata presentata una mozione per questa delibera anche al Comune di Firenze, insieme al gruppo Sinistra Progetto Comune. Non ci avevano prese in considerazione minimamente, fino a che non abbiamo fatto un bellissimo presidio sotto al Comune il 17 febbraio. A seguito di questo presidio siamo stati contattati incredibilmente dalla Commissione Ambiente, e quindi abbiamo appena scoperto che per il 14 marzo avremo un appuntamento di confronto in Commissione Ambiente e saremo noi versus l'Accademia dei Giorgofili, perché pochi giorni dopo il nostro presidio abbiamo saputo che all'interno appunto dell'Accademia è stata fatta proprio una giornata invece straprotea in cui hanno partecipato veramente tutti, da membri del CREA eccetera eccetera, e quindi diciamo ci chiamano entrambi per presentare le nostre tesi da una parte e da un'altra, così che poi loro possano acquisire materiale per decidere. Questa è una grande notizia, perché uno dice che la lotta paga anche a livello locale, anzi forse soprattutto a livello locale, però adesso si apre una finestra molto interessante di lavoro, appunto di lobby, diciamo così, buona con il comune, e quindi dovremo essere bravi a portare le nostre istanze in una maniera più convincente di quei babbioni del Giorgofili. Esatto. Ci proveremo. E via, ti chiederemo l'ultima cosa, perché è uscito da poco un tuo articolo che parla della conferenza di Asilomar. Ci vuoi di due cose? Beh sì, questa era una storia che risale a 50 anni fa, dal 23 al 26 febbraio del 1975 si tenne questa prima conferenza, che poi era nient'altro che una riunione allargata di scienziati che avevano appena scoperto gli impatti del DNA ricombinante, quindi della modificazione genetica in laboratorio, e se ne erano un po' preoccupati, perché poteva avere delle ricadute enormi sul pianeta, dalla costruzione di armi biologiche al provocare il cancro o altre malattie degenerative. E quindi questa invenzione che arrivava negli anni 73-75 fece sì che questa conferenza mettesse insieme tutte le teste di quelli che stavano lavorando su quell'argomento lì, molto nuovo, e cercasse quindi di mappare esattamente quali potevano essere gli impatti sociali, ecologici e sanitari di una tale invenzione. Il grosso problema della conferenza di Asilomar 50 anni dopo è che è stato un momento in cui non è stato coinvolta né la cittadinanza, né la società civile, né in alcun modo la parte critica della scienza rispetto a queste nuove tecnologie, tanto che si è rivelata essere invece un consesso, un luogo dove questa gente si è trovata, non tanto per capire quali potevano essere i rischi, ma come prevenire una regolamentazione da parte del pubblico e delle istituzioni, e come prevenire anche una preoccupazione del pubblico. E questo chiaramente è gravissimo, perché il primo tentativo davvero consolidato, e 50 anni di questa storia ce lo confermano, della scienza di autogovernarsi, quindi di scappare dallo scrutinio pubblico e della società, di discutere i suoi obiettivi con la società, e anzi di ritirarsi nella torre d'avorio, per così dire, e poi chiaramente poter sviluppare tutte le sue innovazioni senza un controllo pubblico e fingendo di avere invece le contromisure per gestire i potenziali rischi da sé. Ottimo, ma senti, prima di lasciarti ti volevamo chiedere che, diciamo, a livello di Unione Europea, intanto se si è rimosso qualcosa, probabilmente sappiamo che c'è stata un'altra prova di votazione, ma non è andata ancora bene, e altra cosa, sappiamo che adesso, diciamo, Crocevia insieme ad altri hanno portato in tribunale la questione, ci dici un po'? Volentieri, sì, ecco, tra le tante cose che sono successe ci sono anche queste, oltre a una settimana di mobilitazione di tutta la rete di Cambiare il Campo, questo ampio network che si è creato un anno fa circa a Roma, sul tema degli OGM, quindi con decine di attività sul territorio, e poi c'è stata anche un po' di tentativi di sbloccare la situazione a livello politico in Europa. Come sappiamo forse come qualcuno ricorda dagli ultimi collegamenti, manca un voto del Consiglio dell'Unione Europea, quindi degli Stati membri dell'Unione Europea, per addivenire a una sintesi di questa proposta di deregolamentazione. Questi Stati non riescono a mettersi d'accordo perché ce ne sono più di qualcuno ancora contrario, e quindi si sta tentando, i nostri diciamo avversari stanno tentando in ogni modo di sbloccare questa situazione facendo delle proposte di compromesso. L'ultima veniva dalla Polonia la settimana scorsa, che però per fortuna ha trovato l'opposizione di ancora di una minoranza di paesi, che comunque rimane sufficiente per bloccare il processo. E noi abbiamo colto intanto questa, come crocevia, questa situazione di limbo per fare un tentativo di bloccare le sperimentazioni sul campo. Secondo noi, dalle analisi che abbiamo fatto delle leggi che dovrebbero regolare quel settore lì, c'è stata una violazione da parte del governo quando ha fatto il decreto siccità approvato poi dal Parlamento, e che sostanzialmente ha accorciato troppo l'iter di approvazione delle sperimentazioni sul campo, cancellando la consultazione pubblica nei confronti appunto sì, dei cittadini e dei portatori di interesse. Quel passaggio lì secondo noi è dovuto sia secondo la direttiva europea che secondo altre norme internazionali, e abolirlo così per decreto, creando una corsia preferenziale per dei nuovi OGM che sono ancora degli OGM secondo la definizione giuridica, fa sì che ci sia secondo noi una violazione. Quello che cerchiamo di ottenere attraverso il ricorso al TAR che abbiamo fatto insieme all'Associazione Rurale Italiana e a un'associazione di consumatori che si chiama Abaco, è la disapplicazione di quel decreto siccità, che voi capite, se riusciamo ad ottenerla saltano tutte le sperimentazioni approvate fino adesso e non si approvano quelle richieste e non ancora approvate, e sarebbe una bella sventola. Dai. Con il TAR. Quindi diciamo ne stiamo facendo varie e variegate, vediamo se pian piano sfondiamo, con intanto una bella banana che non si ossida e incombe su di noi. Esatto. Va bene, grazie Francesco. Allora intanto noi ci aggiorneremo sicuramente prestissimo, nel bene e nel male. Vabbè, e ricordiamo a tutte e a tutti che chiunque voglia delle informazioni può trovarle, immagino, sul sito di Crocevia, ma anche su quello Cambiare il campo, dove vengono pubblicate tutte le iniziative, tutti gli articoli, gli sviluppi di questa campagna contro gli OGM. Assolutamente. Grazie. Bene, grazie. Ciao. Grazie a voi, buon proseguimento di giornata. Grazie anche a te, ciao. Ciao. Solo accettando la finzione, noi ritroveremo l'umanità. Solo accettando la finzione, noi ritroveremo l'umanità. Che venga la realtà virtuale, non ne ho nessun timore. Tanto mi viene già da vomitare prima ancora che mi metta il visore. Vago tra finti pedoni, come in Grand Theft Auto, e predicatori che gridano: io ci parlo di per averlo inventato. Questa vita è finta come quello che passa per vero sul web. Se abbassa quel vetro fume, vedo la banca, non vedo più te. Non abbiamo creato il computer, è il contrario, datemi retta. Siamo fache come i commenti e fache, sta per fache mi lega. Sì, sogno di Silicon Army, sogno la Silicon Valley. Tengo il mio naso sul monitor, mi rendo euforico più di vernice e collanti. Io sto seguendo il mio scopo, mi trovo un lavoro e lo faccio con siti e portali. Quando non c'erano loro riempivate il vuoto giocando ai conflitti mondiali. E tutti meravigli se siamo figli di una paliena. Si sa che progrediamo, non veneriamo più Ra né Atena. Ma una specie di beta tester celeste non fa una piega, dai. È l'inizio e la fine, l'alfa e l'omega byte. In pratica tu sei finto. Io sono finto, finto. L'universo è finto, finto. È più meglio finto, finto. È più bello finto, finto. È più vero finto, finto. Questo non è il pianeta Terra, questo è l'Human Simulator top seller. Mica come quello dei dinosauri, vedi gli hanno dato un bel po' di stelle. Ci giocano fino ai pollici anche lo sati. Concetti validi, tutto finto come certi invalidi, come i muscoli di certi bodybuilder. Sei inutile che cerchi un alibi in questo futuro che è simulato. Ogni computer è un simulacro. Vecchi Atari dispariscono dall'isolato, un po' come tossi rubato. Siamo dei sistemi operativi, figli performanti più dei padri, parti da disegni primitivi e non distingui più le foto dai quadri. Siamo fantoci sicuro, siamo gli androidi di Roshi Shiguro. Crediamo nel vero amore finché non arriva uno nuovo che lo manderà a fare in culo. finta. Siamo quasi giunte alla conclusione di questa ricchissima puntata. Esatto. Lo so, ci avete aspettato per mesi e mesi e mesi. Speriamo di avervi dato un po' di gioie, oltre che dolori, con le nostre interviste. E visto che siamo finte, ci stiamo per scomporre in onde radio. Ma prima di farlo, vi lasceremo la nostra rubrica storica di Cinemela. Quindi buon ascolto e noi ci riascolteremo in diretta dalla stazione venerdì 21 marzo, sempre se tutto va bene, se no nel frattempo vi auguriamo buona Pasqua, buon Ferragosto, buon Natale, buon Capodanno. A presto, ciao. Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, migliori col diretto di Slow Food, GC, GC, sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, migliori col diretto di Slow Food, GC, GC. Cinemela, la rubrica cinematografica di Radio Contado. Benvenute a tutte e tutti a Cinemela, puntata Abbiamo perso il conto. Se puoi parlare un po' con me, ti devo andare al mio MySpace. Ed abbiamo così totalizzato in questo lungo tempo che ci ha separati un minimo di 18 film da consigliarvi, che vi piacerebbero molto, però ad oggi, visto che la puntata comunque è quel che è, vi presenterò i nostri soliti 3 film selezionati per voi. Devo aver avuto un herpes, dato che questo sfogo non mi muovo. Vivo decenni dopo nello stesso clima. Tutto in un giorno, un film spagnolo del 2023. Uno di quei film che si intitolano Tutto in un giorno. Ce ne saranno tipo, almeno che io conosco, almeno 5. Questo è molto bello, è un tutto in un giorno molto bello. Vi dicevo, è ambientato in Spagna, infatti ha preso anche un premio Goya, molto meritato secondo me. È un film molto alla Ken Loach, perché parla appunto di quando la solidarietà nella tragedia diventa estrema, proprio come estrema è la tragedia, affronta il tema degli sfratti ovviamente, sì, quelli che vengono difesi e che sono un tema tra l'altro molto attuale e molto importante in Spagna oggi. Il regista si chiama Juan Diego Botto e vi dico, è veramente molto molto molto interessante questo parallelismo con Ken Loach, ne sembra un erede, e è un film anche dal punto di vista attoriale molto molto ben nutrito, nel senso che c'è Penelope Cruz, molto brava, come raramente l'ho vista, ecco. Luis Tosar, anche lui un ottimo attore, che interpreta un avvocato che appunto cerca di aiutare le vite, è un intreccio di tre storie, una di queste è la storia di un avvocato che aiuta le persone che sono in difficoltà abitativa ed è interpretato appunto da Luis Tosar e Adolfa Calvo e Christian Ceca, ecco, per citarveli tutti, un bellissimo film, tutto in un giorno, un titolo semplice, e di Juan Diego Botto. E veniamo a questo secondo nostro film consigliato per questa puntata, che ho scoperto essere la quinta di questa terza stagione. Il titolo è La morte è un problema dei vivi. Ve lo consiglio innanzitutto per il titolo, che è simpaticissimo. È simpaticissima anche la coproduzione italo-finlandese di questo film del 2023, che è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma. Il regista Timo Nikki, un regista finlandese noto per le sue precedenti serie TV e per un film che cercherò e che, non lo so, magari anche voi lo conoscete, si chiama Il cieco che non voleva vedere Titanic. È un regista molto interessante, insomma, il film è una commedia, è la storia di due vicini di casa che per varie disavventure si separano dalle mogli, uno dei due aveva un'impresa di pompe funebri e insieme mettono su questa impresa di pompe funebri un po' sui generis, nel senso che fa tutte delle commissioni di recupero cadaveri per storie abbastanza losche, quindi insomma è un po' sì, leggero, ecco, paradossale, però è paradossale, ma è anche molto realista sulla situazione, sul cinismo soprattutto delle relazioni, però poi ha sentimenti profondi, analizza sentimenti profondi, insomma è un regista che tiene insieme dei paradossi che alla fine possono coinvolgere anche un pubblico, diciamo, più numeroso e più variegato. Per questo, siccome conoscendo la compagine contadina, ho detto magari questo può piacere a qualcuno di loro. È il primo partito di questo paese. Grazie e arrivederci. E molto bene, veniamo così all'ultimo dei nostri film consigliati in questa nostra puntata di Cinemela. Il titolo è E io ti seguo, un film di Maurizio Fiume del 2004, un film sugli ultimi mesi di vita di Giancarlo Siani, ambientato nei mesi di estivi, beh, insomma diciamo nel 1985, l'ultimo periodo di vita di questo giornalista, inviato del Mattino a Torre Annunziata, un giornalista originario del Vomero, quindi napoletano, che si addentra nelle dinamiche mafiose di quegli anni, che in cui c'era una guerra molto molto crudele in quei territori a causa appunto delle guerre di mafia, e quindi un po' come lui, diventando scomodo e pericoloso per i boss locali, viene ucciso, ecco. È un film molto bello, molto ben strutturato, molto fedele, insomma, ai documenti, in cui ci sono anche un cast molto interessante di attori molto bravi, non noti, di cui vi cito Iari Gugliucci, il protagonista, e ve lo consiglio. E io ti seguo, la vita di Giancarlo Siani, gli ultimi periodi di questo giornalista. Allora è tutto per questa puntata, vi auguro una buona visione e a presto, ciao ciao! Ciao capa, sono Luigi delle Bicocche. Hai visto che schifo? Te l'avevo detto che questi bastardi vincevano le elezioni. Vaffanculo.